8ª edizione di FILI, il Festival dell'Informazione Libera e dell'Impegno organizzato da Libera Bologna, sarà dal 14 al 16 dicembre alla Casa di Quartiere Giorgio Costa, anche quest'anno un'occasione per creare collegamenti e nodi da cui ripartire, per parlare di mafie sul nostro territorio e non solo. Da anni FILI vuole essere il momento di confronto su mesi e mesi di lavoro su quello che avviene sul nostro territorio, per fare luce su fenomeni criminali e mafiosi che troppo spesso rimangono sommersi sotto traccia. Abbiamo tante notizie di cronaca, tanti processi che partono, operazioni, ma difficilmente se ne parla in modo unitario, difficilmente si riesce a far emergere un fenomeno che è sempre più pervasivo e diffuso e che riguarda anche la nostra città. Ne parleremo in 10 iniziative, appunto quelle che compongono il festival, al centro delle quali c'è la presentazione della nuova videoinchiesta di Libera Bologna, alla febbre del cibo, le ombre della ristorazione bolognese, un'inchiesta che vuole fare luce appunto sul mondo della ristorazione in una città, come abbiamo letto anche negli scorsi giorni, che ha sempre più ristoranti, sempre più locali, la città del food, del cibo, un tema su cui però ci siamo interrogati in questi mesi. Dopo le ultime videoinchieste che abbiamo presentato negli anni scorsi, sono tante le segnalazioni che arrivano a Libera Bologna e ci siamo resi conto che sempre di più erano quelle legate proprio al mondo della ristorazione. Abbiamo quindi cercato di approfondire queste decine e decine di voci, di testimonianze che ci arrivavano sia dall'esterno che dall'interno, da ristoratori e ristoratrici, per andare a delineare un fenomeno più ampio, cioè dove sta andando il mondo della ristorazione, com'è possibile che catene si amplino così tanto, com'è possibile che anche durante il periodo del Covid, in cui la ristorazione, come sappiamo, era con l'acqua alla gola, imprenditori abbiano aperto sempre più società e locali, soprattutto nel centro storico di Bologna. E poi c'è un altro tema, cioè persone, imprenditori che sono stati già colpiti da misure legate a mafie, riciclaggio, reati economici, aprano locali in città. Cosa c'è dietro? Cosa ci raccontano questi fatti? E dall'altra, appunto, quali sono i segnali che ci dicono che da cittadine, da cittadini e a livello istituzionale dobbiamo stare attenti a questo settore in costante crescita. E la videoinchiesta la presenteremo venerdì 15 alle 21, ma appunto sono altre 9 le iniziative del festival. Parleremo sicuramente di quello che è avvenuto sul territorio, delle modalità di infiltrazione, di reati economici che creano violenza, parleremo del decreto Caivano e delle politiche del governo Meloni, parlando però di quello che per noi sono gli strumenti necessari da adottare contro la violenza giovanile, dalla Campania fino all'Emilia Romagna. Parleremo della forza del giornalismo locale con giornaliste e giornalisti da diverse regioni d'Italia. Presenteremo le 2 videoinchieste che hanno vinto il premio Morrione l'anno scorso sui CPR, quest'anno sulla mafia foggiana, e parleremo di PNRR, di comunità monitoranti, e chiuderemo con un dialogo con il giornalista Piero Colaprico, da Tangentopoli alla grande nevicata di Milano, dalla cronaca alle storie.